Больше в деревне никто не живет, а и когда он людей убивал, песенку эту он напевал. Disturbo mentale. In tutto il mondo, tra i ricchi come tra i poveri, in campagna e in città. Sì, cioè, sì, non che questo c'entri con il restauro, volendo, potremmo definire ogni persona come un'opera d'arte, soggetta ad alterazioni. È che una cosa del genere, cioè che il 25% delle persone soffre di malattie mentali, come ha stimato l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001, questa cosa qua è una cosa che riguarda tutti, perché o sei malato o sei una persona che è vicino al malato, cioè malato, marito, figlio, collega di lavoro, malato, compagno di classe, vicino di casa, cugino, cioè insomma è una cosa che riguarda tutti, come l'inquinamento e la scarsità di risorse energetiche. Siccome è una cosa che riguarda anche me, mi sono documentata. Ecco. Prepararsi, no? Allora. Qua, sì, voi non siete proprio fortissimi, quindi facciamo anche una cosa. Grazie. Ecco, sì, ve li lascio, ecco, le passate, grazie, ecco, grazie, magari ne lascio anche un po' di più, perché non so se avete visto, ma non sono proprio tutti uguali, no, anzi, cioè, magari che ne capitano tutti uguali, ma sono abbastanza diversi, forse sono due, ma vabbè, va benissimo così. Ve ne manca qualcuno? No, ce l'avete, ecco qua in fondo, che sanno, non so mica, ne lascio qualcuno in più qua così, anche un altro, così anche questo, qua tutto interesse, sono molto. Allora facciamo, qua c'erano delle persone, facciamo che appunto gli lascio un po' di materiale che se tornano magari riescono a darci un'occhiata. Ecco, così sì, sembra, però abbiamo fatto tutto un attimo, che se non c'è qualcuno nascosto, no? C'è nessuno nascosto, vero? No, vabbè. È importante prepararsi, cioè appunto in tutte le cose è importante prepararsi e ci vuole tempo, no? Allora adesso noi siamo qua, vi ho dato i fogli, se avete, cioè prendetevi questo tempo, perché ci vuole il tempo e uno non se lo prende mai questo tempo. Allora adesso siamo qua, leggetevi adesso i fogli, perché è un'altra cosa quando li portate a casa, poi dopo non li leggete più, quindi adesso io vi do qualche minuto e voi li leggete, li leggete qua, sì, io sto qui, non vi disturbo. Volete anche scambiarveli, perché sono diversi, no? Cioè se volete anche appunto li ho fatti diversi apposta perché il tempo, no? Perché è poco, allora. Ci vuole tanto tempo a leggere, lo so. Però potete anche portarle a casa, l'importante è che non me li lasciate per terra, perché poi per dopo prendo io, sì, dopo dicono a me le parole. E anche appunto se avete qualcuno qui, lo volete portare, benissimo, perché lo so che ci vuole tempo. Se ve lo dico io che col mio carattere prendermi tempo, cioè non mi viene proprio naturale prendermi tempo, devo dire la verità. Sì, come quando correvo i 100 metri, sì. Quando correvo i 100 metri a 16 anni, l'allenatore mi chiamava la figlia di Gordon. Anzi, no. Ma chi ti sei? La figlia di Gordon! La figlia di chi? Di Gordon! Che Gordon stava per Flash Gordon, l'eroe dei fumetti. L'allenatore mi chiamava così perché ero abbonata alle false partenze. Gordon, capisci che ti sei la figlia di Gordon? Ma ti vado a correre dopo lo sparo, no prima, dopo, ciao! E poi, Flash Gordon, non c'entrava niente con la velocità, perché quello che correva a velocità supersonica era Flash, Flash però con il fulmine disegnato davanti, Flash e basta, sì. Il fatto è che i soprannomi sono una cosa tremenda, ti si infilano sotto pelle come certe schegge che per una mossa falsa ti finiscono sotto l'unghia e all'inizio ti fanno penare che non riesci proprio a togliertele. Poi si assorbono, non ci fai più caso e alla fine diventano una parte di te. L'allenatore mi aveva battezzato, ero la Fia de Gordon e poi col tempo solo Gordon. E quella scheggia lì mi è rimasta. Sono Gordon. Oh, però bella è questa storia della scheggia, bella è? Non è mia. Me l'aveva detta la Rita. La Rita! La Rita! La centometrista più simpatica che abbia conosciuto. Oh, magra, tutta ossi, veloce però. Un po' costante, oh, ma sempre col sorriso, sempre, piena, piena di vita come un prosecco di Valdo Biadene. Proprio, ecco, lei aveva la capacità di tirarmi su, ma di tirare su in generale, lei tirava su tutti, tutti e tutto. E sì, è come quella volta che mi ha aspettato per un'ora, l'ora di scatti supplementari che l'allenatore mi aveva costretto a fare per l'ennesima falsa partenza. Dai, Gordon, via, via, andiamo via subito! Dai, Rita, dai, ci vuole fare la doccia. No, no, no, Gordon, subito, fidati, fidati. Ma Rita, dai, ma perché? Perché tutta questa fretta? Cosa c'è? Gordon, guarda su, su. Su dove? La bicicletta? La bicicletta? La bicicletta dell'allenatore? Sul palo della bandiera? L'hai tirata su? Andiamo via, via, via, subito, via, via, via, via. L'allenatore! Ci ha visto, ci ha visto! Eccolo, eccolo. Che faccia. Canaglie! E ci siamo giocate la partecipazione ai campionati studenteschi. La Rita, la Rita. Oh, dopo quel periodo lì dell'atletica, la Rita, non l'ho più rivista per parecchi anni, sì sì sì, o ci siamo ritrovate in chiesa, sì, ma non per un fatto religioso, io non sono praticante, no. Beh, è che col mio lavoro le chiese le frequento molto, no? E mi ci trovo anche bene, perché a me è sempre piaciuto stare in mezzo alla gente, però mi disturba doverci parlare per forza, è per questo che preferisco lavorare nelle chiese. Perché le chiese sono come dei bar, ma senza l'audio. Cioè, in chiesa la gente entra, si siede al banco e domanda il solito, di solito, ma in silenzio. Ci sono quelli che vengono tutti i giorni e si siedono sempre nello stesso posto, quelli che tornano ogni tanto e quelli che entrano una volta sola. Turisti. Quelli restano in piedi e fanno il giro. Sì, i turisti. I turisti. I turisti sono quelli che mi parlano, sì. Quelli che mi fanno le domande. Proprio bello sto quadro. Lo conosco. È famoso. È famoso sto quadro. È famoso. Oh. È l'autore. Non mi ricordo l'autore. Di chi è? Scusi, non sono signora, sono signorina, sì, anche se ho l'età, ma scusi, ma quella con gli occhi sul piattino, quella lì è la Santa Lucia, quella Santa Chiara. Per caso, è entrato qui un uomo che si comportava in modo strano? Ma che domanda? Ma no! Ma dai! No, ma è la Rita! Rita! Rita, ti ricordi? Sono Gordon! A campo di atletica! Ah, sì. Gordon. Ciao, Gordon. Scusa, senti, sto cercando mio padre. Il padre della Rita. Il padre della Rita l'ho conosciuto 15 anni fa. Sì, sì. E poi non l'ho più rivisto. Non l'ho più rivisto fino a quando la Rita non è capitata in chiesa. E 15 anni fa era pomeriggio presto. Sì. E io ero in terza superiore e la Rita era in seconda, però a scuole diverse, perché io ero all'artistico e lei al linguistico. Sì. E la Rita siamo al campo, sì, ci si allena e intanto si chiacchiera e si parla di ragazzi. Oh, c'era uno spilungone alto alto, secco secco, quello del salto in alto, che piaceva tanto alla Rita. Sì, sì. Ma dai Rita, dai Rita, ma lo sai, no? Lo sai che quelli troppo alti ce l'hanno piccolo, no? A un certo punto l'allenatore esce dal gabbiotto della segreteria e si avvicina alla Rita con una faccia seria e le dice qualcosa all'orecchio. Che cosa abbiamo fatto stavolta, penso. Poi anche la Rita diventa molto seria e va ai bordi della pista senza una parola, prende la giacca, passando mi saluta. Poi si ferma e mi chiede se l'accompagno. In autobus mi dice solo che il padre ha un problema sul lavoro e poi per il resto del viaggio sta zitta. Scendiamo e dopo 20 metri siamo davanti a un ristorante. C'è una macchina della polizia e delle persone ferme per la strada che guardano verso il locale, ma a una certa distanza. E soprattutto si sente un gran casino. Il padre della Rita sta tirando roba contro le vetrate, ma di tutto, i vasi, il cestino dell'immondizia staccato dal palo, le sue scarpe, e spunta, urla, e poi si mette a ridere, ma con la rabbia, e comincia anche a spogliarsi. Dio sporca mutande! Bestemmia. La polizia allora ci ordina di allontanarci, ma la Rita dice che è la figlia. Allora la prendono da parte e le fanno un sacco di domande. Come si chiama suo padre? Come si chiama lei? Come si chiama sua madre? Dove si trova la madre? La madre è via. Via per motivi di lavoro? No. Separazione. Separati da quanto? 2 anni. Numero e indirizzo suo, indirizzo e numero di telefono di sua madre, episodi precedenti, come in un telefilm, pensavo che un po' sembrava di stare in una fiction. Intanto arriva l'ambulanza e i poliziotti lasciano stare la Rita e cominciano a parlare con gli infermieri e il padre della Rita si accorge che ci sono tutte quelle persone con le divise, i camici, e se la prende con loro e poi vede la Rita. Rita! Rita! Tu lo sai? Lo sai che io conosco qua tutti i complotti dei personaggi che girano qua al ristorante da Adelmo, super lusso, super snob, e loro credono di tenermi fuori, credono sì, ma io lo so, lo sai vero Rita? E tu sei il mio garante, sei il mio garante Rita, sei il garante della mia memoria! I poliziotti e infermieri vanno avanti 10 minuti a parlare col padre della Rita, che intanto fa un sacco di nomi e dice che vuole denunciare tutti quanti. E c'è un poliziotto che gli dà retta più degli altri e gli fa anche dei gesti come per dire stai calmo, gli fa di sì con la testa più di una volta e poi prende un blocchetto e mentre il padre della Rita fa una lista di nomi e di imputazioni, alto tradimento, falsa testimonianza! Il poliziotto scrive, poi lo prende per un braccio e lo fa salire in ambulanza e sale con lui. E l'ambulanza parte senza sirena, ma con il lampeggiante acceso. E la Rita aveva chiesto di salire sull'ambulanza anche lei, ma le avevano detto che non era possibile. E allora mi aveva salutato e se n'era andata via da sola. E al campo da quella volta non c'è venuta più. Io provai a cercarla per telefono. E dopo 2 settimane che provavo e non trovavo nessuno, mi rispose qualcuno. Sono di Cava Gordon. C'è Rita! Dall'altra parte doveva esserci il padre e parlava come se avesse avuto 10 metri di garza infilati in bocca. Cioè diceva qualcosa, ma non si capiva niente. E provai di nuovo la sera dopo. E stavolta mi rispose la Rita. Gordon, adesso non posso. Ti richiamo io. Innanzitutto che ti auguro buona fortuna con tutto il cuore per la professione che hai scelto di intraprendere seguendo le mie orme. Vorrei poterti tramandare il segreto di come si cura la pazzia, attribuirmi il merito di numerosi casi di guarigione completa, ma non posso fare niente di tutto questo. Nei miei 35 anni di lavoro ho imparato che lo psichiatra non è un medico come gli altri. La parola guarigione, come la intendiamo per le altre malattie, è una parola che non si usa o non si rischia di usare in psichiatria. C'è stato un periodo in cui più il mio impegno si intensificava, più mi sembrava inutile la mia azione. Un giorno visitavo 30 malati, il giorno dopo diventavano 35, poi 40, e così ogni giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Ma la gente non smetteva di morire, né diminuiva il numero di malati. Portare un aiuto serio a 40 persone in un giorno è impossibile. Mi sembrava di ingannare il prossimo senza volerlo. Visitare 12.000 persone in un anno vuol dire, facendo i conti alla buona, ingannare 12.000 persone. Quanto a ricoverare malati gravi e occuparsi di loro secondo le regole della scienza, anche questo è impossibile, perché le regole possono anche esserci, ma la scienza. E prima di tutto occorrono pulizie, non sporcizia, cibo sano, buoni collaboratori e non ladri. Ma perché? Perché impedire alla gente di impazzire? Perché impedire alla gente di morire, viene da chiedersi. Se la morte è la fine normale, ineliminabile di ognuno. Se cercherai solo un traguardo di guarigione nel curare i tuoi pazienti, avrai perso in partenza. Disponiti invece all'attraversamento. Ti sarà chiesto di diagnosticare malattie. E diagnosticare vuol dire conoscere attraverso. Attraverso le cose che il paziente ti vuole raccontare, importanti o insignificanti. Attraverso le cose che non ti vuole raccontare. Attraverso le cose che fa, attraverso le cose che non fa, attraverso le cose che vuole, attraverso le cose che non vuole, attraverso le tante parole dei suoi familiari. Non ho una tecnica da tramandarti. Posso solo dirti attraversa. E non lasciarti condizionare dalla diagnosi di un momento. che è appunto un momento, un solo momento nel tempo. Dopo anni la Rita entra in chiesa e ci ritroviamo. E il discorso riprende dallo stesso punto in cui era rimasto sospeso. Come sta tuo padre? Male. Di nuovo? Non di nuovo. Sempre. Dopo l'episodio del ristorante, il padre della Rita era stato sottoposto a TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Cioè era stato portato in ospedale dai poliziotti e trattenuto dai medici nel reparto di psichiatria. E gli avevano dato una terapia d'urto, come diceva la Rita, cioè farmaci che lo avevano fatto dormire un sacco. Dopo 10 giorni era stato dimesso, intontito ma più tranquillo, con un foglietto e una serie di medicine da prendere tutti i giorni. La Rita, obbedendo al foglietto, controllava che il padre seguisse la cura e aspettava. Aspettava. Aspettava che tornasse a stare bene come prima della crisi al ristorante, dove quella cosa che esplodeva non era più suo padre. Non lui, arrabbiato, non lui, tristissimo, disperato, cattivo, ubriaco, un altro. Un altro, un'altra persona. Una persona che poi i farmaci avevano spento, messo in stand-by. E la Rita, con la cura, tratteneva quell'estranea forma di suo padre a galleggiare a occhi aperti a un pelo dal mondo reale. La Rita ci stava curva mezza dentro anche lei con le mani e con i piedi per non far andare a fondo quell'estraneo in apnea, per tenerlo vicino alla superficie, che poteva succedere in qualsiasi momento, in un niente, che veniva fuori a riprendere fiato, a svegliarsi, a sorridere per lei e a ritornare suo padre. Quello vero. Era una cosa lunga e allora ci doveva stare qualcuno vicino. Oh, il periodo in cui si sposavano tutti, o un matrimonio dietro l'altro. O anche la Clara si è sposata. La Clara della squadra! La Clara! Ho tutti invitati ovviamente, io e la Vita pure, cioè. Avevamo fatto in modo di far sedere lo spilungone secco secco al nostro tavolo, vicino alla Rita, peccato però, quella mattina la Rita ha mandato la cugina perché lei stava in ospedale, No, ma non perché stava male lei, no, perché il padre era in psichiatria. E poi è andata a finire che lo spilungone si è messo con la cugina e l'ha sposata. E adesso hanno due figli, sì? Un maschio e una femmina, sì. In cui la Rita cercava suo padre, non c'erano messe speciali. Ma io ho preso una pausa lo stesso e al capo gliel'avrei spiegato dopo. Ciò, ti ha visto? La figlia del matto. La coppia scende le scale e la donna quando ci supera non si preoccupa tanto di parlare a bassa voce, eh? E io e la Rita stiamo andando su all'appartamento di suo padre. La figlia del matto. Parla della Rita. La Rita continua a salire. Deve aver sentito anche lei, Ma va avanti, un po' più veloce. Io penso che sotto l'unghia c'era anche lei, la scheggia, il soprannome, quasi assorbito. Siamo al pianerottolo del quarto piano. La Rita tira fuori una chiave, la infila nella prima porta a destra, gira e apre. Non è tornato. Dentro è un disastro. Quando ci sono gli uragani, sui giornali mettono le foto delle case sbranate, o tutte piegate, appiattite come scatole di cartone. E sopra alberi spezzati che entrano nel tetto. E intorno sembra tutta immondizia. Guardo queste foto ferme e mi arriva il rumore di quello che è successo prima. Cioè, quelle foto sono memorie di rumori, ma memorie in forma di sussurro, perché le foto sono tutte spiaccicate sul giornale e i rumori rimangono pressati, soffocati dentro. Io in quell'appartamento ci entro, lo attraverso e calpesto i vetri, le schegge, i pezzi di mobili, le pozze d'acqua. E quello che vedo è la memoria di così tanti rumori. Rita, apri, so che ci sei, apri, apri! È lui. Che si fa? Aprire? No. Rita, non c'ho la chiave, apri, Rita! Ho buttato giù la porta, porco! La Rita si nasconde la faccia nelle mani. Oh, io chiamo la polizia e i carabinieri. Ci dispiace, signora, ma ci risulta impossibile intervenire. Se il soggetto non ha aggredito qualcuno, e in quel caso è diverso, siamo nel penale. E no, veramente, non c'è stata ancora un'aggressione. E allora non ci sono, non sussistono le estremità del reato. Le estremità? Le mani? Le mani la Rita ce l'ha ancora sulla faccia. Ma non c'è qualcun altro da chiamare? La Rita alza il viso, mi guarda e sembra scivolata sott'acqua con gli occhi aperti. Poi infila la mano nella tasca della giacca, prende il portafoglio e tira fuori un foglietto scritto a mano. C'è scritto CSM e un numero. CSM. Consiglio Superiore della Magistratura! Centro di Salute Mentale, chi desidera? Spiego. Tengo di spiegare la situazione e c'è bisogno che qualcuno venga. Allora, se viene lui qui, il signore, al centro, vedremo di parlargli. Altrimenti potete accompagnarlo direttamente al reparto psichiatrico del civile e i colleghi valuteranno la situazione. è un'emergenza, non può venire nessuno di voi. Ma sta scherzando, noi siamo qui, vi aspettiamo, venite e vediamo di valutare la situazione. È che non mi sembra così facile. Cioè uno che ha distrutto la casa e che vuole buttare giù una porta e il palazzo lo chiama il matto, lo porta a un tè, una chiacchierata. Rita, è così che si fa, Rita? Eh? I colpi sulla porta sono finiti e si sente la voce del padre sul pianerottolo. Sta facendo una specie di predica molto laica, sì, perché si capisce chiaramente, puttana, questa è casa mia! E poi dei passi giù per le scale. La Rita abbassa la testa, si inginocchia e raccoglie dei piatti di plastica che sono sparsi vicino ai suoi piedi. Oh, Rita, ti aiuto! No, grazie, Gordon, no, non ti preoccupare. Da quando ho preso le stoviglie usa e getta, fa molti meno danni e faccio prima a tirare su. Beh, tirare su mi è sempre venuto facile, no? Sì. Ma quella roba, quella cosa che aveva detto la dottoressa, no? Signorina del centro di salute mentale lì al telefono, cioè quella cosa lì di portare, di andare con il padre al centro. La Rita ce l'ha provato, già diverse volte prima di rivedermi, e anche dopo, sì, però non c'era riuscita, no, non c'era mai riuscita. Di roba, c'è lavoro qua da fare, mamma mia, perché era una specie, come si può dire, era una specie di partita, era una partita al gioco dell'oca, come no, cioè, è come il gioco dell'oca, lo sapete, lo conoscete, no, il gioco dell'oca, non conoscete il gioco dell'oca, ma da dove venite? Il gioco dell'oca, almeno una volta nella vita uno ci ha giocato al gioco dell'oca. Come faccio a spiegarvi adesso il gioco dell'oca? Allora, aspetta, cioè, senza farvi un disegno, aspetta. Il gioco dell'oca è una specie di percorso da fare casella per casella, spirale verso il centro, che è l'arrivo. Ecco, vince chi arriva per primo al centro. E si procede in base ai dadi, alla fortuna. Ecco, è così funziona, così. E ci sono molte caselle speciali. C'è una casella che è una figata. Perché se capiti su quella casella lì, vieni con me, se capiti su quella, il valore dei dadi raddoppia. Bello, sì. Allora, se raddoppia, tu guadagni strada, cioè vai avanti veloce, no? Però paghi. E paghi, cioè se devi guadagnare strada paghi, ma vabbè, tu dici vado avanti, pago, ma non è sempre così facile, perché ci sono un sacco di caselle dove ti fermi e aspetti un turno, ad esempio uno fa cinque passi, non so, arriviamo fin qua, no, ecco, arriviamo qui e qua ti tocca aspettare e aspetta e paghi. Cioè non è che se uno paga va veloce, no, puoi pagare anche stare fermo. Oppure no, devi aspettare che qualcuno ti liberi, che arrivi qualcun altro che ti libera. Ad esempio quello che è un po' più fortunato, diciamo, no? Magari ricapita su un'altra casella così, quindi va veloce, paga, e libera quell'altro, no? C'è una specie di una raccomandazione, come dire. Insomma, e quindi questo può andare avanti, sì, però non è che è proprio così che uno riesce sempre ad andare avanti, cioè, va avanti, vede l'arrivo, arriva vicino all'arrivo, e vicino all'arrivo che cosa c'è? La casella dello scheletro, cioè, che è la, non posso, vabbè, insomma, tu arrivi lì, E sulla casella dello scheletro, se ci capiti, devi tornare indietro all'inizio. Marita, che te lo fa fare? Ma perché fare tutta sta fatica? Non hai già perso abbastanza? L'Inghilterra, lo spilungone, il tempo corre, la vita passa, Rita. E quando ti prenderai il tempo di vivere la tua vita? O la vuoi passare tutta a rincorrere? Un matto. È mio padre. Se non lo faccio io, chi lo fa? E la vita, dopo tante fermate e partenze e pegni da pagare, ci riusciva ad arrivare a due passi dal centro. E poi capitava sulla casella dello scheletro, quella che la faceva scivolare indietro alla partenza. Alla partenza! Dai, tutti i posti di partenza! Dai! Dentro no, Sì, perché? Ecco, io quando la vita mi racconta di questo percorso a spirale, no, avanti, indietro, va, e quando me lo racconta, io riesco a immaginarlo. Cioè, no, si può fare una cosa così. Ma quelli che stanno nel centro, quelli che aspettano, che fanno? Ci sarà una dottoressa come quella del funerale, Dottoressa, l'appuntamento delle 10:30 è saltato, non si è presentato. Chi era? Uno nuovo, l'appuntamento lo aveva fissato la figlia. Beh, se viene più tardi, noi siamo tra gli altri. Se non si presenta, mi raccomando, segnalo sulla cartella clinica che aveva l'appuntamento e non è venuto. E segna anche che è stata la figlia a chiamare. Se dovessi segnare tutto quello che i familiari vogliono e dicono, non sarebbe più finita. Detto tra noi, quello che vogliono tutti è che gli togliamo le castagne dal fuoco. Guarda, io faccio finta di non aver sentito. Io lavoro così. Per la diagnosi mi serve sapere tutto, quello che succede e quello che non succede. Senti, già il tempo è poco. Lanciarmi su di lui, lo butto a terra e ci cado addosso. Madonna, la botta che fu frullata. Qualcuno mi prende per il braccio. No, no, aspetta, attenti, attenti, quello c'è in tasca. Quello c'è, aspetta che tira fuori, tira fuori, tira fuori. Un cero di quelli votivi rotto. Deficiente! Hai visto cosa hai fatto? Adesso me lo ripari, Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Un'altra falsa partenza. Correre dopo lo sparo. No, prima, lo so, ho sbagliato i tempi. Ma stavolta potevo aspettare lo sparo. Non mi toccare! Vai, anche tu, prendi, via! Non mi toccate! Il padre della vita se ne va lanciando due monconi del cero in mezzo ai banchi e che per poco non prendo la vecchina tutta curva che stava seduta lì. Stavolta perdo il posto. Il parroco è furioso. Dice che vuole parlare col mio capo. Chiederà la mia sostituzione. E io devo trovare una spiegazione. E parlerò della vita, di suo padre. E posso parlare di malattia mentale oppure... La vita, ecco, è entrata la vita! Lei potrà spiegare. Lei sa sicuramente dire qualcosa. Rita, prima qua, cioè, ascolta Gordon, lascio qui questa ragazza, mostrale la chiesa, falla pulire, falla lavorare, fai quello che vuoi ma tienila qui. Sì Rita, ma sai che prima c'è... Hai capito Gordon, deve stare qui, non farla uscire, tienila d'occhio, io devo andare. Rita, qui c'era tuo padre un attimo fa! Rita, c'era tuo padre qui un attimo fa. La Rita sta per dirmi... Invece, non importa, ormai ho deciso, stai con la ragazza. Non importa, ormai ho deciso, stai con la ragazza. Ma chi è questa qui? Ma che cosa sta combinando la vita? Io non ci capisco più niente. E per cosa ci dico a questa qui che con gli adolescenti io proprio non è che ci sono? Ma perché mi ha messo in queste condizioni? Ciao, ciao, io sono, mi chiamano Gordon, tu? Federica, piacere, io lavoro qui, cioè sì, in chiesa, non in chiesa, cioè non per la chiesa, cioè per la chiesa, insomma restauro l'affresco, ti piace la pittura? La storia dell'arte è un mondo affascinante, perché un'opera attraversa i secoli e arriva a noi dopo tutto questo tempo. E questo affresco che cosa rappresenta, secondo te? Un beato. Come fai a dirlo? Non c'è la testa, non c'è... Dalle mani, che sono bianche e guardano su. È una bella visione, perché le mani sono specchi che riflettono e quelle dei santi riflettono il paradiso. È interessante. Ma no, ma dai, ma chi ti ha detto che vai all'inferno? Ma no, e ci pensi tutte le notti. Ma no, non devi farti condizionare così da una cosa che e per smettere di pensare conti fino a 10 e poi stai ferma. Sì, sono tua amica io, sono tua amica, certo, sì che sono tua amica. Tutti amici e fratelli, lo dico anch'io, tutti amici e fratelli sulla terra dovremmo tutti essere, però ce lo dimentichiamo perché ci sono gli alleati dei peccati che ci confondono. Questo te lo dice Dio o i beati, e tu allora preghi per quelli che sono alleati dei peccati, perché quelli non vanno in paradiso perché non si bagnano neanche la punta delle dita, come quel ragazzo che non sapeva nuotare, allora gliel'hai insegnato tu a nuotare, te lo sei preso sulle spalle, l'hai buttato in mare e il padre e la madre però si sono messi a gridare, allora tu gli hai fatto vedere come si doveva cantare, perché è bello cantare, cantavi anche l'estate scorsa nel recinto dove ti aveva portato tua madre, che la sola diceva che non si chiama recinto ma ritiro, ma gli altri lo chiamavano clinica. Allora, ti piace cantare Federica? Se ti piace cantare, canta Federica, canta. Ambarabacci cicocco, tre cimette sul colo, che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si ammalò. Ambarabacci cicocco, con la figlia del dottore, io sono la figlia del dottore, sono la io la figlia del dottore, il dottore mia mamma è un dottore, mia mamma si vergogna, mia mamma si vergogna, appena apro bocca davanti agli altri mi strizza la mano davanti agli altri, come una bambina di 5 anni, Federica non è il momento, è il momento che io sento i beati e tu non le senti perché dai la paura di non essere importante, regina della scrivania, dei dottori, delle medicine, di non essere tanto importante. No, adesso chiamo la Rita. Adesso chiamo la Rita perché... questo è un po' troppo. Prima padre, adesso la ragazza. È un po' troppo. Rita, la ragazza, quella che mi hai portato qui, quella. È andata fuori di testa e ha cominciato a cantare, a dire cose strane. E adesso è andata su per il campanile. Ma Rita, dove sei? Un paio d'ore prima, la Rita si trovava con suo padre nello studio della psichiatra del centro. La Rita e suo padre erano arrivati al centro, E la Rita cominciava, dottoressa, il problema è di mio padre. Ma la dottoressa la interrompe e si rivolge al padre. Come si sente? Sta bene? Sta benissimo. Sua figlia, al telefono, ci diceva che è un po' nervoso. C'è qualcosa che la infastidisce? Ma mi dica lei come stanno le cose. Ok, non c'è niente da dire. Vuole che parliamo da soli? Non c'è niente di cui parlare. Prende dei farmaci? Li prendeva? Ora non li prende più. Che cos'era? E se facciamo una mezza fiala oggi? Proprio effetti collaterali. Tremore, lingua ingrossata, si sentivano zombie. Ma perché non resta un po' qui con noi? Ma qui non la sequestra nessuno. No, prendiamo un caffè. Prendiamo un caffè e facciamo due chiacchiere. Ma guardi, se proprio vuole andare via, non c'è nessuno che glielo impedisce. Noi siamo sempre qui. No, signora, non lo trattenga. Non lo si può obbligare. Lasci che vada. La Rita aveva afferrato il padre per la manica dell'impermeabile mentre lui si alzava, ma le parole della dottoressa l'avevano inchiodata per un attimo. Il padre si era liberato ed era uscito. Lasciarlo andare. Così, dopo 10 minuti, o forse 5 appena, ci sono voluti anni per superare la porta del centro. E la porta dello studio, sedersi, trovare una soluzione, una terapia, una vita vivibile. Fatto sempre quello che mi hanno detto. Lo tenga con sé, non drammatizzi, lo prenda così com'è, abbia pazienza. La polizia, se non c'è reato, non interveniamo, i parenti e ognuno la sua croce, questa è la tua. No, dottoressa! Questa croce diventerà anche tua, perché una croce così non si può lasciarla andare, non si può lasciare andare la croce, e te ne accorgerai, dottoressa, te ne accorgerai! Io la Rita non l'ho mai vista furiosa, e non doveva essere un bello spettacolo, perché come quelli che sono sempre positivi, ma quelli che trovano sempre la forza di andare avanti, di affrontare le cose, che trovano quel briciolo di benzina per andare ancora avanti, quelli, quando spegne la spia della riserva, perché si aspetta tutto il cruscotto, perché si aspetta tutta la macchina. Quelli fanno partire gli uragani. La Rita era uscita dallo studio della dottoressa con un'idea, croce. Risponde alla ragazza a denti stretti masticando croce. La ragazza è lì per chiederle se la dottoressa è ancora nello studio. C'è, ma buona fortuna, risponde la Rita. Se cerchi aiuto da quella... Ma la ragazza non è lì per cercare aiuto. Ehi, è la figlia. È la figlia della dottoressa. La Rita si trova di fronte la figlia della dottoressa. Ma Rita, ma cosa pensavi in quel momento lì? E la Rita mi ha detto che pensava alla croce. Alla croce da far sentire alla dottoressa. Si era trovata di fronte la figlia. La dottoressa è una madre. E una madre la croce la sente. Alla croce si aggrappa quando si tratta di un figlio. La Rita si ferma a parlare con la ragazza nel cortile del centro di salute mentale. Ma sa se se mia madre è impegnata ancora a lungo. Sì, dice la Rita. Si è impegnata in un caso lungo, molto lungo. La ragazza era stata lì già un quarto d'ora prima e le avevano detto che la madre era in riunione, di aspettare o di ripassare un po' più tardi. E ancora non era il momento giusto. Con sua madre non è mai il momento giusto. La Rita non ha fretta e si offre di farle compagnia. Escono dal cortile, passeggiano, chiacchierano. Cosa farà da grande? Il medico? No. Nonno psichiatra. Mamma psichiatra? No, medico no, è noioso. A Federica, la ragazza, piacerebbe fare un mestiere sempre diverso e che però sia utile alle persone, allo spirito delle persone. E allora le possibilità sono due, o fare la suora o l'artista, le suggerisce la Rita. No, la suora assolutamente no. E storia dell'arte a scuola è una palla, è una vera palla. A scuola, forse. E allora, la Rita aveva proposto a Federica, la ragazza, di capire un'opera d'arte dal vivo. E l'aveva portata da me. Cioè, la Rita era comparsa in chiesa come un lampo, mi aveva mollato la ragazza ed era uscita quasi di corsa. Tornava dalla dottoressa. Era entrata nello studio senza bussare, se n'era fregata della reazione della psichiatra. Lei aveva la figlia. Lei aveva il coltello dalla parte del manico. Non le credeva? Ecco i particolari, troppo precisi per essere inventati, ed ecco la richiesta. Solo tre parole. Cura mio padre. Ma la dottoressa non si era lasciata intimidire da Rita, anzi l'aveva attaccata, come se era permessa di coinvolgere sua figlia, di mettere in mezzo il nome di sua figlia per un ricatto idiota. Il padre della Rita aveva interrotto il colloquio e allora lei come psichiatra aveva degli obblighi. Non poteva trattenere le persone con la forza, né imporre una terapia. Che cosa si aspettava da lei? Una cura per tranquillizzarlo, ma non troppo, che sennò sembrano zombie. Ma evitare le crisi, perché sennò come si fa a stare dietro? È perché c'è il lavoro, il fidanzato, le vacanze di voi normaloidi, le vacanze già prenotate. Entri qui dentro, dici di aver sequestrato mia figlia solo perché conosci il suo nome, quello che le piace, cosa pensa di me del mio lavoro, e pensi che basti questo per un ricatto? La Rita lo sa che non basta, ma non sta rileffandolo. Infatti prende il cellulare. Vuoi parlare con tua figlia? Ma in quel momento arriva la mia chiamata. Sì, Gordon, passami la ragazza. Rita! Rita, la ragazza che mi hai portato qui! Quella mi è andata fuori di testa! Ma come? La dottoressa ha una figlia malata di mente. Come fa a non capire lo stato d'animo di Rita? Sì, mia figlia è malata. Ma ora dov'è? Dobbiamo raggiungerla. Potrebbe farsi del male. Per mio padre sei sempre qui. Ma per tua figlia non muovi il culo. Giurami che curerai mio padre e ti porto da tua figlia. Aveva giurato. E come se aveva giurato la dottoressa. E poi lei e la Rita si erano precipitate da me. Me le ritrovo davanti. E prima è la Rita che mi chiede come sono andate le cose. Poi la dottoressa la interrompe per sapere dov'è Federica, come si sale sul campanile. Ci andiamo tutte e tre. La dottoressa è avanti, è salita per prima. Rita è due gradini sopra di me. La trattengo. Rita, fermati un attimo. Spiegami cosa succede. La Rita mi racconta senza guardarmi della visita con il padre che non è andata bene, dell'incontro con la figlia, del rapimento e del ricatto. Dall'altro si sentono dei colpi. E il nome di Federica ripetuto con insistenza dalla dottoressa. Corriamo su. Troviamo la dottoressa che picchia contro la botola del soffitto di legno. Si è chiusa là sopra. Non mi vuole parlare. Io che parlo con così tante persone ogni giorno, non riesco a parlare con lei. Ma non è facile. Io cerco di guardare attraverso, di sentire attraverso le persone. Ma una figlia... Una figlia si può attraversare? Mia piccola! Non so più cosa fare. Non sono più la mamma che ti salva dal mondo, come quando la tua mano stava tutta intera sul palmo della mia mano. Non sono neanche il dottore che riesce a trovare le risposte, perché con te non trovo nemmeno le domande giuste. Ti difendo come la mia carriera e la mia vita. Se quando dici così, forse sei tu che attraversi me. Mentre ascoltavo, la Rita si era tirata indietro, dietro alle mie spalle. Un rumore, mi giro e me la ritrovo in piedi sulla finestrella stretta del campanile. Si stava arrampicando per salire su da fuori. Rita, sta attenta! Ce l'ha fatta, perché si sentono dei passi, diversi passi, e lo sgancio della serratura della botola. La dottoressa sente, apre la botola e si infila su. E io anche. Mentre con la coda dell'occhio percepisco un movimento, come un battito d'ali fuori dalla finestrella. Arrivo su. Trovo la Rita affacciata e la dottoressa che viene verso di me, mi urta e corre giù. E Federica, dov'è? Beh, vado vicino alla Rita e mi affaccio, guardo giù come fa lei. Sai, Gordon, tutto questo tempo, tutta questa fatica per cercare di tirare su. Invece, guarda giù. Vedi? È così facile. Basta... Rita! No! Signorina, che aveva vicino il turista e che teneva quella...